Avevi manducato un pipistrello, forse? E avendone noi paura, venimmo cogliendoti nel sonno. Io il monaco che porto a mio danno, o misura, il monaco a levante ortaglie, e anemoni che però di spontanea gamba crescono, di spontanea fonte zampillano, di spontanea benignità. Dilettissimi frutti della mia prevostura, o tu gran petalo di quella madre che ti teneva nel trepido pomeriggio che ti sfogliai e ti vidi cadere mandando in polvere, senza volere io, la tua natura, di astemio fiore che non sa più che fare, che giocarne, che volerne di frottole o di fronde perché gli vengano ridati gli azzurri baci, i bianchissimi abbracci, le lacrime, la pelle, i capelli, le braci e tutte intere le illusioni belle.